Noi possiamo allora imparare a prenderci un po' di tempo nel corso della giornata, bastano pochi minuti, che sono, è un tempo un po' alla portata di tutti, un appuntamento per ascoltarsi e anche per ritrovarsi, perché ogni tanto occorre tornare a noi stessi e respirare davvero, basta poco, una piccola azione per un grande risultato. Allora proviamo a farlo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno. Io ho chiesto a Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training di farci da guida, in linea con noi. Buongiorno, ciao Daniele. Buongiorno Nicoletta, ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo veramente una manciata di minuti, però vorrei iniziare a proporre un esercizio, il primo di una serie, perché vorrei lanciarvi una proposta. Trovate un minuto per voi stessi, tutte le volte che potete. Fatelo ogni giorno per tutta la settimana e poi raccontateci com'è andata. Potete usare la nostra pagina Facebook come un diario, lo usiamo come nostro diario collettivo, e venerdì tireremo le somme. Ogni giorno metteremo sulle pagine del programma l'esercizio suggerito da Daniele Belloni. Ogni giorno lui tornerà a trovarci in una sorta di percorso. Daniele, iniziamo da oggi. Sì, iniziamo da Sankalpa, una cosa, una parola sanscrita che si usa nello yoga con l'accezione di determinazione, intenzione oppure anche decisione. E si effettua il Sankalpa decidendo di portare attenzione a un particolare aspetto della pratica yoga, ma anche della propria vita, perché certo le posizioni che eseguiamo sul tappetino dello yoga sono importanti, ma dicono i maestri e ce lo ricordano sempre, molto più importante è la posizione che portiamo nella vita. Quindi utilizziamo il Sankalpa coordinando le nostre energie in vista di un risultato positivo per la nostra giornata. E siccome, come dicevi tu Nicoletta, questo è il primo dei 5 consigli yoga della settimana, potremmo effettuare il Sankalpa decidendo di partire dal corpo e quindi proponendoci di osservare la nostra postura nei vari momenti della giornata, magari in piedi alla fermata del tram, in fila presso uno sportello, seduti in ufficio o prendendo l'ascensore, e correggerla se sentiamo che qualcosa non va. Possiamo rilassare le spalle, allineare capo, collo e tronco, effettuare una leggera retroversione del bacino che ci consenta di non caricare la zona lombare di eccessive tensioni e magari anche rilassare le ginocchia per evitare l'iperestensione delle gambe che di nuovo avrebbe effetti tensivi a carico dell'area lombare. Proveremo immediatamente un benessere non solo fisico ma anche mentale. E poi proviamo un'altra piccola azione capace di portare grandi risultati, rilassare la fronte. Mantenendo la fronte rilassata, Nicoletta, è davvero difficile pensare negativamente.